fatta al computer, visto direttamente, se non è una stanghettina da una ventina di centimetri. Guarda, è perfetto per questo. Piccolina, bellina, non è molto grande, copre bene la capsula e tante cose. Quindi, stamattina l'amico mio è partito, due tarle più tre super siderik, non importa oggi quando ritorno. Bello, bello, bello, ma ecco le vanno bene. Ma io l'ho attaccato alla camera perché c'era lo stesso attacco. L'uso con la camera, ci ho lasciato solo il P2 e il P3, basta. Guarda, il microfono tutti conservati, l'MP7, l'MP500, tutti conservati, l'MC50, tutti. Ho fatto solo quelli in uso, basta fare esposizione, anche se no non va a giro di nuda, adesso c'è il computer e mi serve il posto per poter lavorare col PC. Senti, ho capito, quel P7 qua l'avevamo provato, lo sai come andava bene, è vero? Il P7 sì, non mi viene via. L'abbiamo provato, no, è sempre il solito discorso, il 60, quello lì, più 7, capito? No, vai benissimo, con quel microfono lì alla grande. Te l'abbiamo attaccato, ma non sai che non andava avanti importante, mi sembra, le connessioni siamo diverse. E poi bisogna vedere se ha fatto bello, non so, so che va bene alla... Se lui ha detto così, va bene così. sei in difficoltà, mi fanno sapere, cioè mi fanno sapere a te, sali e te lo prendi, capito? L'ho sentito stasera, quello dice l'ha provato, però non riuscivo a togliere dentro, dice che c'ha una aspetta come si chiama, ma come fare per bloccare, che ci vogliono le pinze a becco lungo, non si chiama, le vanno bene, una cupiglia, e dice che l'ho trovata e non riusciva a toglierne quella, capito? Che così esce tutto il blocco, vede, in plastica addirittura blocco, un granaccio. Sì, beh, quella cupiglia serve per il fine corsa della gradazione, capito Massimilia? Quindi se riesce a fare quel lavoro viene bene, perché pure le mette. L'importante è che non escano le palline, perché se no ce l'hai nel culo. Volevo vedere a lui, ma credo che non lo saprà sistemare un motore, ricca, però non la buona. Una volta tolgo la cupiglia, perché tu è giusto il tappo per vedere il problema che c'è, ho capito, magari è tutto un altro secco, il braccio è davvero, visto che è in plastica, che non ce la fa farlo girare. Una volta che lo apre da vedere, se no si mette a bagno di acqua o di benzina e si pulisce bene. Infatti, si vede un po' come la situazione. Positivo, positivo, va. Comunque dimmi chi sei di andiate, ma ci vediamo, per cambiare discorso, a me non è 60, con la spugnetta non mi piace, non si vede il microfono bello, a me lo stesso, da fumare una pallina da tennis. Capito, lo faccio a L, metto il gasbetto, sotto e faccio il ripiano con questi mattoni che ho fatto qua, ho capito. Così poi sotto posso fare tutto ammessole, in modo che ci puoi appoggiare gli alimentatori, ci diventano lontani, capito? Esce una bella cosa, va. Se riesco a svuotarlo tutte le cose, me ne scenderò di lì, lo chiudo bene, faccio una piccola finestrella. È bello sì, però lei dice che le 9 ne ho 4, io vado a mangiare, semmai andrò a salutarle se c'è qualcuno, e se no ci sentiamo le prossime, ci aggiorniamo allora Massimiliano, capito? Si sente anche lei, lo dirò che ne ho trovato un altro, ma che l'ho portato l'armadio, infatti mi mancava uno, perché c'era il control box, capito? Perché è trovato il control box, il rotore però quello lì è quello che ho tutti lassù, mi avrebbe invece un altro le scorte, il control box e il rotore l'ho trovato dentro l'armadio, quindi si può vedere insomma cosa fare. Dopo vado a mangiare e ci sentiamo, stammi bene, saluti a casa, capo a capo. E io, dai, grazie a te, saluto a te. Un abbraccio, grazie di essere stato a salutare e ci sentiamo le prossime. Speriamo di non aver problemi con quello, ma se c'è qualche problema già ti busso, non c'è problema, ma. Ok, a più tardi, ci sentiamo, buona cena, ciao ciao.